24. La storia. E se non ci fossi andata a quella festa, disse lei, la mia vita sarebbe stata uguale. Come posso fare a dirlo? Magari l'avrei incontrato da un'altra parte. Provo a fare uno sforzo adesso. Mi vedo nel 1963, ho 14 anni. E a quella festa ci vado, sì, e come se ci vado? Perché non ci dovevo andare. Mica possiamo saperlo il nostro futuro. E forse è meglio così. Certo. Insomma, con lui mi ci sarei fidanzata. Adesso no, sono sicura, mai, non l'avrei fatto mai. Però mi vedo a 14 anni e rifaccio esattamente le stesse cose. Sono a quella festa, mi sto annoiando, mi viene pure da piangere. Poi arriva lui, ha più di 20 anni. Guarda solo me, balliamo un lento. Mi innamoro. Ditemi, che ho fatto di male? Oggi raccontiamo una storia di vita quotidiana. Siamo a Torino nel 1972 e tra i molti fatti di quell'anno ce n'è uno destinato a durare a lungo. Ma prima fermiamoci un attimo a quel 1972 in Italia, solo per citare alcuni fatti. Il primo processo per la strage di Piazza Fontana, la prima clamorosa impresa delle Brigate Rosse con il rapimento dell'ingegner Macchiarini, la morte dell'editore Feltrinelli nel tentativo di un attentato ad un traliccio elettrico, l'assassinio del commissario Calabresi, le bombe sui treni. Tutto ciò non è altro che l'anticipo di notizie ancora più sensazionali che ci avrebbero perseguitato per tutto il decennio del 70. Ma torniamo allora alla nostra storia. A Torino, in quel 1972. Un padre di famiglia con una figlia, Fulvio Magliacani, una sera sparisce. I più pensano, sarà scappato con un amante. Soltanto Francesco Magliacani, il padre di Fulvio, ha un'idea fissa. Qui c'è qualcosa di strano, sono sicuro. Me lo hanno ucciso. Ma chi e perché, gli chiedono tutti, compresa la polizia. E lui risponde soltanto: è una mia forte sensazione. Ma sulla forte sensazione di un genitore non si costruisce niente, tantomeno un'indagine giudiziaria. La storia di chi è questa? Di Fulvio, che è sparito la notte quando cominciava l'estate del 1972? O di Franca, sua moglie. 7 aprile 1969, Torino, il giorno in cui Franca e Fulvio si sono sposati. In quella stessa primavera, a Torino cominciano gli anni 70. La crisi è alle spalle, nelle fabbriche la produzione riprende a pieno ritmo. La Fiat assume, nel 1968 entrano in fabbrica 12.000 nuovi operai. Tutto bene allora, e invece no, a Mirafiori la tensione è altissima. Perché? Sta accadendo un fatto nuovo, come al solito. Quei 12.000 operai assunti sono tutti giovanissimi, hanno fatto la scuola dell'obbligo, sono cresciuti con la televisione. Completamente diversi da quelli arrivati dal sud solo qualche anno prima, quelli a cui non gli sembrava vero qualsiasi cosa e quindi stavano zitti e buoni. Adesso in fabbrica gli operai riescono a vedere nuovi incubi. La catena di montaggio alienante, e quella parola piace, e di bocca in bocca comincia a dilagare. I ritmi stressanti, caporeparto sempre col fiato sul collo. E allora picchettaggi e mobilitazione permanente, vogliamo tutto e subito. Queste parole piacciono agli operai e piacciono agli studenti che sono sempre lì, davanti i cancelli di Mirafiori. Vogliamo tutto e subito. Viva la lotta operaia! Viva la capacità degli operai di unirsi e sconfiggere qualunque padrone! Aumento dei salari, uguali per tutti. Abolizione delle categorie più basse dei lavoratori. Diminuzione delle ore di lavoro, una qualità migliore della vita dentro le fabbriche. La rabbia, un nuovo soggetto, e i sindacati faticano a tenere la situazione sotto controllo. È la primavera del 1969, fra qualche mese l'autunno caldo e alla fine dell'anno la bomba di Piazza Fontana a Milano. Cominciano gli anni 70. Questi i fatti che scorrono accanto ai protagonisti di questa storia. Sì, scorrono accanto perché si può vivere un'epoca e essere sensibili ad altre angosce. Franca è una bella ragazza bionda, gentile, cresciuta a Torino in un quartiere popolare, ai confini con le Vallette. Come se la ricorda lei? Prima la scusa, eccentrica, un po' ambiziosa. Eccentrica? Sì, una bella ragazza. Cioè, eccentrica cosa vuol dire per lei? Eccentrica, bella, là, come si dice, che non lo so. Una ragazza che faceva girare gli uomini. Quel ragazzo non ci piace, dicevano i suoi genitori. Quel ragazzo, il ventenne della festa, l'altro, si chiama Paolo Panna. Paolo Panna era un tipo un po' chiuso, secondo me, non si capiva bene che tipo era. Il bello di Barriera, come dite qui a Torino. Sì, un bel ragazzo, sì. Un tipo che andava, veniva, ma non salutava, non era cordiale, diciamo, come siamo quasi tutti noi della periferia. Un giorno, una festa in cui intervenivano 10-15 ragazzi, si incontrarono Paolo Pan e Franca Ballerini. Paolo Pan era venuto, diciamo, alla festa così di straforo, perché non faceva parte della compagnia di noi che eravamo leggermente più giovani. Quanti anni aveva Franca Ballerini? Franca Ballerini aveva 14 anni. Noi eravamo sui 17-18 e Paolo aveva circa 21-22 anni, quindi era già leggermente grande, fuori dalla cerchia. E in quell'occasione si sono conosciuti. Logicamente Paolo era già un bel ragazzo allora. Aveva già un certo ascendente sul sesso femminile. E Franca Ballerini, che in quel periodo usciva con un ragazzo della mia età, restò colpita, diciamo, dal fascino adulto, diciamo, rispetto a quello che era nostro, di Paolo Pan. E hanno cominciato così, ballando e baciandosi, come si faceva in quelle feste casalinghe. I genitori di lei non volevano che lei uscisse con lui? I genitori di lei erano assolutamente. Perché? Perché Paolo Pan faceva parte, diciamo, della cerchia delle case operaie, no? Un ragazzo che vive nelle case operaie non va bene per Franca Ballerini. Franca lo sa, ma non sa che fare. Si sente divisa in due. La passione la porta altrove, ma poi decide. Mix 24. La storia. Stiamo raccontando una storia di vita quotidiana. Siamo negli anni 70. C'è una ragazza, Franca Ballerini, è bella, alta, bionda, ha un fascino particolare. Si è innamorata di Paolo Pan, più grande di lei di qualche anno, un tipo poco affidabile che non piace ai suoi genitori. Poi l'incontro con Fulvio Magliacani, figlio di un immobiliere di buona famiglia, un tipo non particolarmente bello, ma onesto. Franca deve scegliere che fare. Faceva parte delle case operaie, un buon motivo perché abitava in un quartiere confinante, leggermente più agiato, per non far uscire la figlia con un ragazzo di là. Sei una bella ragazza, Franca, dicevano i suoi genitori. Devi frequentare gente migliore di te. E con migliore si intendeva più ricca. E con questa storia tutti i giorni, come una goccia d'acqua. A volte Franca si arrabbiava, si disperava, altre volte fingeva di ubbidire. Non lo vedo più quello lì, diceva Franca, però ci usciva di nascosto. E allora tutto da capo, sei una bella ragazza, la gente migliore di te. Finché un giorno Franca incontra Fulvio. Il padre ha un negozio di mobili, lui fa il rappresentante, un mini appartamento a Sestriere, una bella moto. E tutti si acquietano, o almeno così sembra. 7 aprile 1969, il matrimonio. Una bella festa, tanti invitati. E il viaggio di nozze in Spagna, Barcellona. La casa non è ancora pronta e Franca e Fulvio vanno ad abitare a casa dei genitori di lui. Insomma, una storia dei filmini normali, come tanti altri alla fine degli anni 60. Poi la casa nuova, in un palazzo moderno. E i divertimenti, tanti. Le gite, la moto, gli amici. E Paolo Pan, quello delle case operaie? In fondo ha esaudito il desiderio dei genitori. Ha sposato un bravo ragazzo, Fulvio Magliacani. Ma Paolo Pan, il suo amore della festa, quello delle case operaie, che fine ha fatto? Ve lo dico io cosa ha fatto. Fa lo spavaldo, aveva incominciato la sua carriera rubando automobili. Adesso non ruba, ma lascia che siano gli altri a rubarle e lui commercializza. È determinato a diventare qualcuno e in realtà i numeri per diventare qualcuno ce l'ha. È sveglio, è una bella presenza, benché abbia un pessimo carattere. D'altra parte non ha alle spalle un corso di studi regolare e vive in un ambiente che non lo aiuta. quanto a Fulvio e Franca, tutto bene. Si sono sposati, hanno avuto una bambina, vivono tranquilli, fino a quella sera del 21 giugno del 1972. Fulvio non torna a casa. Franca aspetta per due sere che ritorni, chissà da dove. Fino a quando, la mattina del 24 giugno, si presenta la polizia a denunciare la sua sparizione. Ecco il racconto di Franca Ballerini di quella sera. Faceva caldo, faceva molto caldo la mattina del 20, dice Franca in commissariato. Telefono a mia madre e le dico: andiamo a Sestriere, abbiamo un mini appartamento lì. Fulvio no, resta a Torino, aveva da lavorare. Partiamo verso le 11, 11 e mezzo, io e mia madre e la bambina. Mi fermo a metà strada più o meno, chiamo Fulvio da un ristorante di Villa Arperosa, le solite cose, gli dico pure che la bambina stava soffrendo un po' la macchina. Restiamo di sentirci il giorno dopo, il pomeriggio, verso le 6 a casa. C'è la partita in televisione, aveva detto, e me la voglio vedere in pace. Chiamo il giorno dopo, non risponde nessuno. Strano, provo dai miei suoceri, non c'è nemmeno lì. Non era mai successa una cosa del genere. Certo, un contrattempo da qualche parte, in ogni caso torno a Torino. A casa non c'è nessuno. D'istinto apro i cassetti e gli armadi. Manca una valigia, tre vestiti, della biancheria, il porto d'armi, il passaporto. Il commissario è fuggito. Andava d'accordo con suo marito, signore, disse il commissario. Certo, risponde Franca, viviamo in perfetta armonia. Viviamo in perfetta armonia. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. A questo punto la polizia non ha che da avviare la solita routine. Manda comunicati a tutte le questure, controlla i registri degli alberghi. Quanto poi all'eventuale abbandono del tetto coniugale, si vedrà se si tratta soltanto di una scappatella per poi tornare oppure no. In ogni caso, la mattina del 25 giugno i giornali pubblicano una notiziola di poche righe. Scomparso padre di famiglia da alcuni giorni. Una notiziola che si perde in ben altre notizie, sia che vengono da Torino sia dal resto d'Italia, in quel drammatico 1972. Lo racconta per noi Giordano Bruno Guerri. Il 72, che è un anno che non si ricorda in genere. Il 72 non dice niente, non è come 68, 48, anni che solo dal nome si vengono immediatamente definiti per quello che è accaduto. Nel 72 nella nostra memoria non accade niente, invece accade praticamente di tutto. Basti dire che l'Italia ebbe non so più quanti governi, cadeva un governo dietro l'altro, durarono pochissimi mesi tutti, Andreotti, Colombo, eccetera, eccetera, governi balneari, governi estivi. Altro fatto fu che le Brigate Rosse cominciarono a diventare veramente dure dopo aver iniziato così con pochi atti dimostrativi, cominciarono veramente a essere presenti nella politica nazionale, nell'opinione pubblica, soprattutto nelle fabbriche e soprattutto nella Fiat a Torino. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. E Fulvio Magliacani, il padre di famiglia, è tornato a casa? Neanche a dirlo. Nell'ottobre del 72 la moglie lo denuncia per abbandono del tetto coniugale e chiede la separazione. Va a vivere insieme alla bambina dai suoceri, dai genitori di lui. Ma dopo qualche tempo affitta un appartamento per sé in Corso Francia, a Torino, e anche lì va a vivere con la bimba. La storia sembra finita qui. L'unico, il solo a non credere alla fuga del figlio è il padre di Fulvio, Francesco Magliacani. E infatti disperato si mette a fare il detective in proprio. Continua a bussare alle porte di tutti i commissariati sostenendo che c'è qualcosa di strano. È convinto che gli abbiano ucciso il figlio. Ma naturalmente non fornisce nessuna prova per le indagini. E allora continua disperato il giro delle redazioni dei giornali alla ricerca di qualche cronista che lo aiuti nelle sue indagini private. e va da Claudio Gioacchino, giovanissimo giornalista della redazione di cronaca della Stampa di Torino. Il quale mi raccontò per un'ora una storia complicatissima di cronaca nera, sostenendo che suo figlio, che aveva 28 anni, sposato e che era scomparso di casa da una decina, quindicina di giorni, era stato ucciso dalla moglie e dall'amante della moglie. E mi disse: guardi, questo, io sono sicuro che le cose sono andate così, se lei indaga, investiga, farà uno scoop colossale, perché io sono sicuro che mio figlio è stato ucciso. Quindi io presi una tonnellata di appunti, salì, il capo mi stette ad ascoltare, poi disse: sì, ma questo Magliacani abbiamo già pubblicato, la Stampa Sera, il giornale del mattino, del pomeriggio della Stampa, abbiamo già pubblicato qualche giorno fa la notizia della scomparsa, poi uno di 28 anni, sposato, già con una bambina di un anno, ma sarà andato con qualche donna, figuriamoci, guarda, lascia perdere questa storia, che tanto di questi mitomani, di questi racconti ne abbiamo valanghe. Il signor Magliacani va via portandosi dietro le sue convinzioni e i suoi sospetti. Mio figlio è stato ucciso da sua moglie che ha un amante, continua a ripetere. Sembrava eccessiva un'affermazione del genere. E chi è poi questo amante della nuora? E le prove? E che scopo l'omicidio? E soprattutto dov'è il cadavere? Perché il signor Magliacani non si rassegnava all'idea della fuga di suo figlio? Prima di tutto che mio figlio non sarebbe andato via senza avvertirci. Mio figlio era sempre in contatto con noi, veniva, telefonava continuamente, per cui, conoscendo bene mio figlio come lo conoscevo, ho pensato subito che non poteva essere sparito in quella maniera, neanche andato via con una donna o con altri, come poi era stato detto. Poi il giorno che mi andate a cercare mio figlio a casa sua, da delle pressanti telefonate della moglie, tre telefonate che non doveva fare, in quanto doveva telefonare alle 19.30 a casa sua, quello era l'appuntamento che si erano dati, quelle pressanti telefonate mi hanno fatto andare, fecero andare a casa di mio figlio, vero, a cercarlo. Vero. Poi il giorno successivo venne la moglie di Fulvio, da Sestri, e io, recandomi a casa di Fulvio, la trovai sulla finestra. Appena mi vide, mi disse che mancava una valigia. Cioè lei aveva già fatto l'inventario? Aveva già fatto l'inventario, aveva detto, anzi, e questo l'ha detto in... risulta dagli atti, ha detto in evidenza che io sono arrivato 10 minuti dopo di lei. Lei in 10 minuti è entrato in casa. Aveva già fatto l'inventario? Aveva già fatto l'inventario, cioè mancava quel dato vestito con quella data cravatta e quei dati calzini che facevano pendant, e così altre cose, no? Profumo, lametta, barba, così via, così va via con la valigetta, per il mistero, lascia una macchina, la BMW, la lascia sotto, la Kawasaki la lascia in garage, no? La macchina aperta, lasciata la macchina aperta con le chiavi sotto il cruscotto, insomma, per uno che va, che si allontana, va a fare un viaggio, perlomeno con una donna, macchina, con una donna, ragazza, poi non va via con i vestiti estivi, anche se era giugno. I carabinieri interrogano una signora vicina di casa che conferma che quella sera del 21 giugno 1972 aveva udito delle urla dall'appartamento dei Magliacani. Altri vicini di casa parlano di battibecchi, litigi, ma si sa, il litigio è il sale del matrimonio. I carabinieri indagano a tutto campo, in particolare indagano sulla vita privata, intima, di Fulvio e Franca, ma non viene fuori nulla di particolare. A dirigere le indagini è il maresciallo Savoia. Le indagini sono ad un punto fermo fino a quando... Un colpo di scena. Riprendiamo dopo la pubblicità. Thousand people, maybe more. 24, la storia. Bentrovati, siamo a Torino e il maresciallo Savoia sta indagando sulla scomparsa di un ragazzo, Fulvio Magliacani. Sua moglie, Franca Ballerini, una sera del 21 giugno 1972, non lo vede tornare a casa. Sembra una storia di abbandono, una donna lasciata sola, abbandonata da un ragazzo che forse si è sposato troppo giovane. E invece, ad un certo punto... 21 dicembre 1972. Al valico di frontiera, Ponte San Luigi, tra Italia e Francia, arriva una telefonata anonima. Fermate una mini-mino rossa targata Torino. Alle ore 21 la polizia di frontiera se la trova davanti. A bordo c'è Paolo Pan, viaggia con documenti falsi, come aveva detto il telefonista anonimo. Appena da un giorno pendeva sul suo capo un mandato di arresto per traffico internazionale di auto rubate e l'anonimo aveva trovato il sistema per impacchettarlo. Paolo Panzi, proprio lui, il bel ventenne che fulminò Franca alla festa, quello delle case operaie, la signora bionda al suo fianco, è Franca, proprio lei, la moglie di Fulvio Magliacani. La perquisiscono, le trovano in borsa 5 milioni in contanti, troppi per passare la frontiera, andavano denunciati, ma non le succede niente. Paolo Pan lo arrestano. È soltanto un vecchio amico, dice Franca, fra noi non c'è assolutamente nulla, io vivo sola. E per Natale desideravo passare qualche giorno con qualche amico a Nizza. Frequentare un vecchio amico non è reato. Sempre solo. Il solo che non la pensa così è il padre di Fulvio, Francesco. Ma c'è una persona, un corniciaio, che ad un certo punto entra in scena in questa storia misteriosa. È un uomo terrorizzato, non sa che fare, dice di essere perseguitato, si rivolge ad un avvocato chiedendo aiuto. Compare nel mio studio un individuo, entra, si guarda attorno circospetto, tanto da farmi paventare il peggio, poi finalmente dice io sono testimone di un fatto gravissimo, io sono a conoscenza di un delitto tremendo, io so dove hanno seppellito un galantuomo e per queste mie conoscenze sono perseguitato da tempo. Il giovanotto terrorizzato che chiede aiuto all'avvocato Perla fa il corniciaio. Lavora onestamente, la sera si rilassa nei locali notturni di Torino. Questo racconta il maresciallo Savoia, chiamato immediatamente dall'avvocato. Maresciallo, io so chi ha ucciso Fulvio Magliacani. Il maresciallo fa un balzo. Erano proprio difficili quelle indagini, non riusciva ad aggrapparsi a nulla. E ora quel tipo, proprio di fronte a lui, gli offriva la soluzione senza tante storie. Non gli sembrava vero. Maresciallo, l'assassino è Paolo Pan, sicuro e certo. Me lo ha detto suo fratello, l'ho incontrato in un night, si chiama Tarcisio, Tarcisio Pan. È uno che beve e quando beve canta che è una meraviglia. Maresciallo, faccia qualcosa, lei mi deve proteggere. E quello lì il giorno dopo è venuto in negozio a minacciarmi. Ha detto che se spiffero qualcosa lui e il fratello mi fanno fare la stessa fine di Magliacani. Maresciallo, io ho paura. Tutto qui, dice il maresciallo Savoia, che capisce che con quella dichiarazione non ci fa assolutamente nulla. E capisce che deve giocarsi immediatamente il tutto per il tutto. E parte. Giovanotto, perché dovrei crederti? Per me, tu sei uno della banda di Paolo Pan, avete fatto delle cose insieme, hai paura di finire dentro e adesso racconti questa storia sperando in qualche sconto di pena. Prove vere mi devi portare se vuoi che ti creda. Se sei capace, fagliela raccontare un'altra volta questa storia a Tarcisio Pan. Registrala, il registratore te lo piazziamo noi in macchina, tu pensa solo a farlo cantare. Il corniciaio è terrorizzato, capisce solo che si è cacciato in un brutto guaio e l'unica via di uscita è fare come ha detto il maresciallo, deve solo aspettare il momento giusto. E per aspettare il momento giusto il corniciaio diventa un amicone di Tarcisio Pan. Lo marca stretto, non lo molla un attimo. Sa che rischia di brutto con quel maresciallo Savoia. Le vacanze le passano insieme al mare, il corniciaio e Tarcisio Pan. La mattina in spiaggia, pure lì, cerca di fargli dire qualcosa ma non succede niente. La sera a ballare, si divertono, quasi quasi gli dispiace fare questo scherzo a Tarcisio, in fondo un cavolo, e ricomincia. Ma per portare via il corpo come faceste? E quello niente. Passò l'estate e quello niente. Finché un giorno di ottobre a Torino, il miracolo, in un night, al corniciaio, Tarcisio Pan gli sembrò ubriaco al punto giusto. Vieni, ti accompagno a casa, disse il corniciaio, e Tarcisio lo seguì in macchina senza fiatare. Ma il posto dove seppellirlo, l'hai scelto tu o tuo fratello? Io, vicino a Givoletto, andavamo lì da piccoli, mi è venuto in mente che c'è un torrente, è tutta campagna. Abbiamo lasciato il cadavere nel baule della 125 di Paolo e con la mia 500 siamo andati su. Abbiamo scavato la buca, poi mio fratello è tornato a Torino con la 500. Ha preso la 125 ed è venuto su con la buon'anima. Io stavo lì ad aspettare che arrivasse, 2 ore mi ha fatto aspettare. Giuda bastardo. Ma i caramba stanno sotto zero. Se non c'è il morto non possono farci niente. Giuda bastardo. Lei ci ha mandato a farlo sparire, quello lì. Me lo ha detto mio fratello, solo perché voleva che il marito sparisse. Stai tranquillo, adesso è andato tutto bene, disse il corniciario. Ti ci vorrebbe un figlio, dovresti chiamarlo Tarcisio. Non è possibile, disse Tarcisio. Tarcisio Pan sono io. Sei un campione, disse il maresciallo Savoia. Gli hai fatto firmare pure la confessione. Ricapitoliamo. A questo punto il maresciallo Savoia ha addirittura la confessione firmata di Tarcisio Pan, il fratello di Paolo. Quello che gli manca è il cadavere, e senza il cadavere non ci sono prove. A questo punto per i carabinieri diventa un gioco da ragazzi. Seguono Tarcisio Pan, frequentano i nightclub che frequenta lui, diventano amiconi, fanno insieme le bevute e un giorno, durante un giro in macchina, si improvvisano delinquenti, gli puntano la pistola alla bocca e gli intimano. Adesso ci dici dove avete seppellito il cadavere di Magliacani. Il 26 ottobre 1973 Paolo e Tarcisio Pan e Franca Ballerini vengono arrestati. Il 9 agosto 1975 il rinvio a giudizio. L'accusa è pesante. Omicidio e occultamento di cadavere per i fratelli. Concorso in omicidio per Franca Ballerini. I tre restano in carcere in attesa del processo. Franca Ballerini ha un solo pensiero, sua figlia. La bambina è stata affidata ai nonni, i genitori di Fulvio. Franca, in attesa del processo, si proclama innocente. Non ho ucciso mio marito, continua a ripetere. Torino, 10 marzo 1977, Corte d'Assise. Comincia il processo Ballerini-Pan. Il pubblico è quello dei grandi processi. 1977. Nel pieno degli anni di piombo e tanta gente in aula che si appassiona a una storia torbida. Lei, lui, l'altro. Un morto. Come ai vecchi tempi. Furono due personaggi che affascinarono l'opinione pubblica e in questo caso Pan Ballerini esplose sia per il contenuto della vicenda, ma soprattutto perché i due protagonisti erano due personaggi cinematografici, cioè lei alta, bionda, occhi tra il verde e il grigio, una donna bella, non bellissima, ma bella, ma soprattutto una donna con un fascino, proprio una calamita per l'uomo. Lui, alto, il bello e dannato, è un tipo alla Alain Delon ed era una persona che si presentava molto bene, il classico sciupa femmine. Tutti gli imputati raccontano di essere innocenti. Un bel guaio. Paolo Pan dice: non sono stato io. Ad ammazzare il marito è stata Franca. Lei si è sentita perduta e mi ha chiamato. Io l'ho solo aiutata a far sparire il cadavere. Non è vero, ribatte Franca. Quel giorno io non mi sono mossa da sestriere. Ero con mia madre e la bambina. Tarcisio Pan poi prova a ritrattare la confessione. Non è vero niente. Mi sono inventato tutto. Ero ubriaco. Udienze tutti i giorni per quasi 2 mesi. Il pubblico sempre inchiodato in aula, colpi da tutte le parti. Poi un giorno, all'improvviso, una dichiarazione di Franca Ballerini. Il padre di mia figlia non è Fulvio Magliacani, è Paolo Pan. Silenzio e gelo in aula. Non mi ha provocato esattamente niente. Difatti, nel mio interrogatorio, il giudice all'atere, no? Alla fine dell'interrogatorio, mi ha chiesto che impressione mi aveva fatto e come aveva accolto questa notizia, no? E gli ho risposto che per me non ha fatto assolutamente niente, perché la bambina praticamente abbiamo tirato su sempre noi da quando era piccola, cioè casa nostra, eccetera. No? La bambina ci voleva bene, Fulvio l'adorava, per cui per noi era la figlia di Fulvio, perché le prove, dopo aver detto tante bugie per salvarsi, se ne possono dire anche altri, senza pensare a gettare fango su una bambina innocente che potrebbe portarsi per tutta la vita questo marchio, figlia di un assassino, va bene? In qualsiasi maniera si sarebbe dovuta salvare. Io non voglio, non posso dire niente. L'impressione della bambina, sì, ce ne sono state, ce ne sono, d'altronde però non vorrei lasciarle fuori da questo. Però è già stata strumentalizzata troppo la bambina, non voglio farlo io, non voglio mettermi al paro degli altri. 2 maggio 1977, la sentenza. Ergastolo per Franca Ballerini e Paolo Panna, 28 anni e 11 mesi per Tarcisio Panna. La storia non finisce qui. Il 4 dicembre del 1978 c'è l'appello. Assolve Ballerini Franca. Franca Ballerini, assolta per non aver commesso il fatto. Tarcisio Panna, assolto per insufficienza di prove per l'omicidio, è condannato a 7 anni per aver aiutato il fratello a seppellire Fulvio Magliacani. Ergastolo confermato per Paolo Panna. Ma il 3 ottobre del 1981 la Cassazione dice: perché gli indizi contro Franca Ballerini non sono diventati prove? Il processo è da rifare. Franca torna in carcere per 1 anno. Mix 24. La storia. Bentrovati, siamo all'epilogo. Franca Ballerini è in carcere accusata di essere complice del suo amante Paolo Pan dell'omicidio di suo marito Fulvio Magliacani. Lei, lui, l'altro. Ma com'è andata davvero la storia? Franca Ballerini e Paolo Pan stavano insieme nonostante lei fosse sposata? Franca Ballerini e Paolo Pan, quel bel giovane che aveva conosciuto ad una festa da ballo negli anni 60 e che i genitori non le avevano lasciato sposare perché consideravano morto di fame, avevano avuto una relazione che era durata anche dopo il matrimonio. Ma questo non è reato. Durante il processo, invece, la corte aveva appurato che ad un certo punto Fulvio Magliacani, forse perché geloso della relazione della moglie, si era presentato a Paolo Pan e l'aveva minacciato. Guarda che io ti denuncio alla polizia per i tuoi traffici di auto rubate. E Paolo Panna lo aveva ammazzato. Il 21 dicembre del 1982 si arriva alla sentenza definitiva. E se non detenuta per altra causa ne ordina l'immediata scarcerazione. Legge il presidente. Un urlo di gioia delle altre detenute e Franca, che non è in aula, capisce. Sono le 13.30 del 21 dicembre 1982. Franca Ballerini esce dal carcere. È finita oramai. Che tutti dimentichino me e la terribile storia che ha divorato gli anni più belli della mia vita. Questa è una storia di Torino. L'anno è il 1972. Lui, lei, l'altro, ma soprattutto la solitudine di un padre, è l'inizio degli anni 70. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti. Siete per sempre coinvolti per quanto voi vi crediate assolti. Siete per sempre coinvolti.